Il lavoro di massa e la lotta armata sono uniti nella rivoluzione. Ciascuno dei due è necessario per sostenere, rafforzare e completare l'altro. Sono fronti diversi, interdipendenti e alleati contro il comune nemico. Il nostro scopo finale è la completa distruzione dell'imperialismo, la presa del possesso dei mezzi di produzione e la costruzione del socialismo. Le possibilità della massa armata si sviluppano fin dall'inizio delle azioni di guerriglia. Il suo spontaneismo verrà lentamente trasformato nell'energia di una forza armata popolare. Senza lotta di massa non può esserci rivoluzione, senza lotta armata non può esserci vittoria. Sul sottoproletariato, in Prateria in Fiamme, affermarono: «Il potenziale rivoluzionario ed il contributo dei poveri, dei disoccupati e dei carcerati non può essere liquidato con la categoria di sottoproletariato. Il capitalismo moderno comporta stagnazione cronica che crea un vasto numero di disoccupati e sottoccupati permanenti. Questo vasto settore non può essere paragonato al piccolo gruppo descritto da Marx. I legami culturali e comunitari tra gli attuali disoccupati e gli operai più sfruttati giocano in questo paese un ruolo significativo nelle lotte della classe operaia». Il libro documento si conclude con queste parole: «Creiamo i germi della nuova società nella lotta per la distruzione dell'impero. Per la nostra generazione questo ha significato la nascita della vita comunitaria e del lavoro collettivo nella società più individualista e competitiva del mondo. La rivoluzione è la levatrice che fa nascere la nuova società dalla vecchia. Nelle lotte di liberazione, nel processo di guerra rivoluzionaria, si formano la cultura della nostra comunità, il popolo che tentiamo di diventare. Veniamo chiamati ad impegnarci in questa lotta e il tempo stringe. La gente sta già morendo, le vite sono sprecate e consumate. La vita stessa dipende dalla nostra capacità di assestare un colpo decisivo e mortale al mostro». Prateria in Fiamme venne distribuito in centinaia di librerie in tutti gli Stati Uniti in una sola notte e il giorno dopo migliaia di copie passavano di mano in mano. Gli Weathermen sperimentarono nuove idee e tattiche di lotta, nuovi stili di vita, nuovi modi di amare, nuovi valori esistenziali e seppero inoltre, come le Pantere Nere, usare magistralmente i mass media come cassa di risonanza del loro progetto politico. Questo il giudizio degli Weathermen in merito alla società statunitense. Questa è una cultura mortale. Picchia i suoi figli e scarta i suoi vecchi, imprigiona i suoi ribelli e si ubriaca di morte. Ci alleva e ci educa ad essere socialmente irresponsabili, arroganti, ignoranti e qualunquisti. Siamo il popolo tecnologicamente più avanzato nel mondo e il più arretrato politicamente e socialmente. E quindi ascoltiamoci una canzone di quel periodo, cantata da Joan Baez in italiano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bella ma canto a sé, aveva mille donne e se cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, ma sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Mi ha detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta C'era un ragazzo che come me amava i Beatles, i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra del Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, tra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà ad essere morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Vediamo di delineare come è sorta e come si è evoluta questa organizzazione. Nella primavera del 1960 viene fondata l'organizzazione Students for Democratic Society da giovani intellettuali radicali di sinistra. L'SDS ebbe un forte sviluppo negli anni 60, trasformandosi da un insignificante gruppo di studio nella più grande organizzazione americana della sinistra marxista rivoluzionaria nella seconda metà degli anni 60, opponendosi alla guerra in Vietnam, al razzismo e alle disuguaglianze sociali ed organizzando le mobilitazioni dei giovani in quel periodo. Cercavano però di evitare gli stereotipi dei gruppi della sinistra tradizionale, cioè degli stalinisti e dei trotskisti che negli USA si erano sviluppati negli anni 30. L'SDS insisteva sul fatto che la rivoluzione investiva direttamente la loro vita e che l'elemento personale e l'elemento politico dell'esistenza di una persona non potevano essere separati. I membri dell'SDS cercarono di portare la guerra a casa, come dicevano, per costringere il paese ad affrontare direttamente gli orrori della guerra del Vietnam. Era inizialmente un'organizzazione di protesta pacifica, ma alla fine degli anni 60 divenne sempre più radicale e per l'azione diretta. Erano ampiamente presenti nelle università e nel mondo dell'emergente cultura giovanile, ispirato alla rivoluzione cubana e legata al movimento nero. Bill Ayers, uno dei dirigenti degli Weathermen, nel suo libro Fugitive Days, racconta: «Decisi su due piedi di unirmi all'SDS, una zuppa fatta di ingredienti assai vari e gustosi. Molti di noi erano studenti, altri erano hippie, freak e vagabondi. Alcuni erano intellettuali, altri anarchici, ribelli, socialisti, comunisti di ferro, ragazzi ancora giovani, figli dell'elite lavorativa, rampolli d'ambo i sessi, di famiglie potenti, eredi dei formidabili beatnik, poeti, liberi pensatori, artisti, ragazzi di strada, rocker, digger, cioè facenti parte di un gruppo anarchico attivo a San Francisco fra il 1966 e il 1968, che faceva opera di controinformazione culturale e politica attraverso il teatro di strada. Wobblies, cioè membri del sindacato rivoluzionario Industrial Workers of the World, e altro ancora. Nel 1962 l'SDS pubblica la dichiarazione di Port Huron, nella quale si persegue un'alleanza di neri, studenti, gruppi per la pace e organizzazioni e pubblicazioni liberali per condurre il Partito Democratico ad avere posizioni progressiste. Nel giugno 1963 l'SDS diffonde il documento L'America e la Nuova Era, che critica l'inadeguatezza del programma di Kennedy, cosiddetto della nuova frontiera, per la soluzione dei problemi del disarmo, della giustizia sociale e dell'eguaglianza razziale. Viene proposto anche un'organizzazione indipendente delle forze più avanzate che stanno emergendo nel movimento per i diritti civili, in quello per la pace e nel movimento degli studenti. In dicembre l'SDS crea l'Educational Research Action Project, un progetto di lavoro organizzativo di quartiere tra i bianchi poveri e i neri in 10 città del nord. Nel giugno del 1965 l'SDS organizza la prima marcia nazionale contro la guerra a Washington. I partecipanti sono più di 15.000, in gran parte studenti. Nei tre mesi successivi le sezioni locali dell'SDS triplicano il loro numero. Gli iscritti sono diverse migliaia. Nell'agosto del 1966 si riunisce la Convenzione Nazionale dell'SDS a Clear Lake, in Iowa, dove viene approvata una strategia per il potere studentesco e viene ribadita la necessità del lavoro politico nelle università. Ed ora ascoltiamoci un pezzo degli Steppenwolf, tratto dalla colonna sonora del film Easy Rider, che uscì alla fine degli anni 60 dal titolo Born to be Wild. Born to be wild. In questo periodo entrò nell'SDS il Progressive Labour Party, un partito che si proclamava marxista-leninista-maoista. A dicembre l'SDS si impegna per una resistenza radicalizzata alla leva militare. Viene lanciato un appello a tutte le sue sezioni perché contestino con proteste e azioni dirette le visite dei rappresentanti dei militari e degli industriali nelle università. Nel giugno 1967 si riunisce la Convenzione Nazionale ad Ann Arbor, in Michigan. Si scontrano due linee politiche. Quella imperniata sul concetto della cosiddetta nuova classe lavoratrice e quella del Progressive Labour Party, che vede nella classe operaia l'agente decisivo della rivoluzione. Il Progressive Labour provò ad imporre il proprio controllo sull'SDS e decise che se ciò fosse risultato impossibile avrebbe cercato di impedirgli di funzionare. La maggior parte dei membri dell'SDS preferirono ignorare queste discussioni ideologiche, impegnandosi invece in iniziative contro la guerra del Vietnam e il razzismo. Il Progressive Labour Party considerava ogni tipo di nazionalismo come reazionario, quindi ripudiava la rivoluzione cubana, tutte le lotte di liberazione nazionale e condannava l'FLN del Vietnam come traditore della rivoluzione per aver accettato di partecipare ai colloqui di pace di Parigi. Il 30 gennaio 1968 l'offensiva del Tet esplose in tutto il Vietnam del Sud e particolarmente in 36 capoluoghi di provincia, inclusi Hue e Saigon. Gli americani cercarono di riconquistare l'ambasciata rimasta per un po' di tempo nelle mani dei Vietcong. In aprile gli studenti occupano la Columbia University per protestare contro la speculazione edilizia nel quartiere nero di Harlem, contro la presenza di centri e programmi di ricerca finanziati e sostenuti dalla CIA e contro il servilismo delle autorità accademiche nei confronti del potere economico. Uno dei leader della rivolta è Mark Rudd, che diventerà poi uno dei dirigenti degli Weathermen. Il 4 aprile viene ucciso Martin Luther King. 125 città furono teatro simultaneamente di rivolte, furono impiegati 55.000 soldati per reprimere la popolazione ed in una settimana 46 persone furono uccise e 25.000 furono arrestate. Ascoltiamoci allora un'altra canzone cantata da Joan Baez, We Shall Overcome. We shall overcome. We shall. I know. shall overcome someday. We are not afraid today, ha ha. We are not afraid. Oh Lord, not afraid. Oh Lord, not afraid. Do A giugno, alla convenzione nazionale di East Lansing, in Michigan, il Progressive Labour Party viene messo in minoranza. La maggioranza dei delegati in piedi con il pugno chiuso gridano «Fuori il PL!». In autunno l'SDS era ormai sconvolto dalle divisioni interne che rendevano impossibile anche in casi importanti l'iniziativa politica a livello nazionale, minando così la vitalità dell'organizzazione. In ottobre, alla riunione di Boulder in Colorado del Consiglio nazionale dell'SDS, viene respinta la proposta del PL per un programma di azioni comuni tra studenti e lavoratori organizzati. A dicembre, alla riunione del Consiglio nazionale dell'SDS, il PL riesce a far approvare un documento sul razzismo, ma viene approvato anche un altro documento dal titolo «Per un movimento rivoluzionario della gioventù», di un'altra componente dell'SDS, il Revolutionary Youth Movement, che rappresenta l'alleanza degli avversari del PL. Il documento è sottoscritto da alcuni membri che poi fonderanno gli Weathermen, come Bernardine Dorn, John Mellen, Mark Rudd, Bill Ayers, John Jacobs e Ovi Machtinger. Nell'aprile del 1969 gli Weathermen formarono un caucus, un gruppo di corrente all'interno dell'SDS, formato da 10 persone per produrre una risoluzione politica da presentare alla Convenzione Nazionale che si sarebbe tenuta in giugno e che in seguito diverranno il Weather Bureau, cioè l'organismo direttivo degli Weathermen, che pubblicherà anche il loro giornale Fire. Ascoltiamoci ora Street Fighting Man dei Rolling Stones. Yeah. Gli Weathermen furono inizialmente visti come una delle fazioni in cui l'SDS si era suddiviso. Essi pensavano che le rivoluzioni nazionaliste del Terzo Mondo avrebbero avuto un ruolo decisivo nella distruzione dell'imperialismo statunitense. I membri degli Weathermen erano stati tra i capi della rivolta alla Columbia University ed avevano creato gruppi regionali dell'organizzazione negli stati di New York, Michigan e Ohio. Questo è ciò che scrivevano per quanto riguarda la struttura organizzativa. Dobbiamo costruire un'organizzazione basata sulla segretezza, autosufficienza dei quadri e un rapporto organico con un movimento attivo e la sua base di massa. Vincere una guerra contro un avversario come gli imperialisti richiederà un'organizzazione clandestina di rivoluzionari con uno Stato maggiore unificato, un'organizzazione cioè tenuta insieme dalla disciplina con una dirigenza centralizzata. Poiché la guerra è politica, essa deve essere guidata da una prospettiva politica, la rivoluzione comunista internazionale. L'organizzazione centralizzata dei rivoluzionari deve quindi essere un'organizzazione politica oltre che militare, cioè quello che viene generalmente chiamato un partito marxista-leninista. Gli Weathermen rifiutavano il principio lavoro uguale valore e prospettavano la liberazione della voglia di godere una vita in una società che ha ormai i mezzi per assicurare a tutti la ricchezza, mentre l'attuale società impone il proprio sistema con la violenza e con le armi. Con le armi deve quindi essere combattuta. Ritenevano inoltre che una rete clandestina si mimetizzava molto facilmente nei luoghi e nelle forme alternative della controcultura, che formavano ormai un vasto sistema all'interno del sistema stesso. Gli Weathermen inizialmente entrati in clandestinità erano qualche centinaio. Dal 18 al 22 giugno del 1969 si tiene a Chicago la convenzione nazionale dell'SDS, dove viene espulso il PL, il Progressive Labour Party. L'SDS si divide quindi in due componenti, una composta dai presentatori del primo documento del Revolutionary Youth Movement, che ne propongono una nuova versione, firmando la Revolutionary Youth Movement 2, e l'altra formata dai futuri Weathermen, che produce un documento dal titolo «Non c'è bisogno di un meteorologo per sapere da che parte soffia il vento», che sostiene la creazione di una forza combattente internazionalista tra la gioventù bianca della classe lavoratrice per fornire un appoggio materiale alle guerre di liberazione nazionale del Terzo Mondo e dei movimenti neri radicali per rovesciare l'imperialismo statunitense. Ritenevano infatti che le colonie dei popoli oppressi dell'imperialismo non si trovassero tutte fuori dai confini degli Stati Uniti e che i neri dell'America del Nord, portati qui come schiavi 400 anni prima e il cui lavoro ha costruito questo paese, sono una colonia interna sul territorio del paese oppressore. L'obiettivo finale che si proponevano era la distruzione dell'imperialismo e la realizzazione di un mondo senza classi, cioè il comunismo mondiale. Il documento inoltre è incentrato sulla concezione strategica della guerra di popolo, così come essa è definita da Lin Piao, leader militare e politico del Partito Comunista Cinese. Questa concezione prospetta un fronte unito popolare delle forze di liberazione del Terzo Mondo, le quali circondano la capitale mondiale dell'imperialismo, gli Stati Uniti. Il titolo del documento degli Weathermen è tratto da una canzone di Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, in cui vengono cantate le parole da cui prendono il loro nome gli Weathermen. Ascoltiamola. Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. took out a kid. It's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at your heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, they say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of being success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge your scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Gli Weathermen vedevano nella lotta contro lo Stato lo strumento migliore per creare una coscienza rivoluzionaria tra le masse popolari americane. Fin dall'inizio, infatti, affermavano: «Per chi la vive, la partecipazione alla lotta è la migliore educazione sul movimento, sul nemico e sulla lotta di classe. In un quartiere o in una città, l'esistenza di una lotta è elemento catalizzatore di altre lotte». È un esempio e un precedente che è più facile seguire. Bill Ayers, nel suo libro Fugitive Days, ricorda quel periodo così. La rivoluzione era a portata di mano e insieme alla questione del potere si parlava di lotta armata. Ci chiedevamo come sviluppare un'unità armata, una brigata, una legione o una divisione, come costruire un'organizzazione clandestina con un'elevata capacità militare. Volevamo imparare a combattere attraverso il combattimento, acquisire abilità ed esperienza, aumentare la nostra forza e le nostre capacità tramite la pratica rivoluzionaria. Eravamo pronti a creare un'armata rossa americana. Il 3 settembre a Pittsburgh gli Weathermen realizzano un'azione organizzata e condotta da donne. Così la racconta Bill Ayers. I collettivi si impegnarono in bizzarre competizioni, sfide per dimostrare il proprio valore, lo zelo rivoluzionario. Avevamo sentito che alcune donne a Pittsburgh erano entrate in una grande scuola superiore della città, avevano occupato gli uffici ed erano riuscite a parlare per un'ora e mezzo al microfono della rete audio interna, prima di essere fermate. Un altro gruppo si era impadronito degli altoparlanti in occasione di una corsa automobilistica. Noi decidemmo di occupare un cinema e parlare agli spettatori presenti fino all'arrivo della polizia. Il collettivo di Boston aveva distrutto gli uffici antisommossa dell'Harvard Center for International Affairs, mentre il gruppo di Cleveland aveva marciato direttamente nell'anfiteatro dove si tenevano gli incontri di tennis per la Coppa Davis, e poi decidemmo di bruciare l'effigie di Henry Ford III in un parcheggio davanti alla finestra di casa sua. Alla prima reazione bruciammo una macchina e poi scappammo il più velocemente possibile. Il 24 settembre inizia a Chicago il processo agli 8 della cospirazione, arrestati durante le manifestazioni di protesta, avvenute nell'agosto 1968 alla Convenzione Nazionale del Partito Democratico. Davanti al tribunale avvennero violenti scontri. Tra gli imputati degli otto della cospirazione ci sono Dave Dillinger, direttore della rivista Liberation e organizzatore delle prime manifestazioni contro la guerra, Abby Hoffman e Jerry Rubin dello Youth International Party, il partito degli hippies con la Y iniziale, cioè gli hippies di sinistra politicizzati, Tom Hayden, uno dei primi dirigenti dell'SDS, e Bobby Seale, presidente delle Pantere Nere. Gli Weathermen organizzarono una violenta protesta davanti al tribunale. 19 dei partecipanti alla manifestazione vennero arrestati. Si conclude qui questa prima parte dedicata agli Weathermen o Weather Underground Organization. Ci risentiamo per la seconda parte.